Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Terza puntata. E io, poveretta, sentii qualcosa di simile al mormorio che fa il vento quando arriva e passa tra i fiori di carta. Sentii una vibrazione d'aria e d'acqua e sollevai silenziosamente i piedi come una ballerina di Renoir, come se stessi per partorire. E in qualche modo, in effetti, mi accingevo a dare alla luce qualcosa e a venire io stessa alla luce. Con le mutande che mi ammanettavano le caviglie magre, agganciate a un paio di scarpe che avevo allora, dei mocassini gialli comodissimi. E mentre aspettavo che il soldato controllasse i cessi uno per uno e mi disponevo moralmente e fisicamente a non aprire, a difendere l'ultimo baluardo di autonomia dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, io, una povera poetessa uruguaiana che però amava il Messico come nessun altro, mentre aspettavo, dicevo, cadde un silenzio particolare. Un silenzio che non compare né sui dizionari musicali né sui dizionari filosofici. Come se il tempo si frantumasse e corresse in più direzioni alla volta, un tempo puro, né verbale né composto da gesti o azioni. E allora vidi me stessa e vidi il soldato che si guardava rapito allo specchio. Le nostre due figure incassate in un rombo nero o immerse in un lago, ed ebbi un brivido. Elas! Perché capii che ero momentaneamente protetta dalle leggi della matematica. Perché capii che le tiranniche leggi del cosmo, che si oppongono a quelle della poesia, mi proteggevano. E che il soldato si sarebbe guardato rapito allo specchio e io lo avrei sentito e lo avrei immaginato altrettanto rapita nella singolarità del mio cesso. E che a partire da quell'istante le nostre singolarità avrebbero costituito le due facce di una moneta atroce come la morte. Per farla breve, il soldato e io restammo immobili come statue nei bagni delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia. Tutto qui. Poi sentii i suoi passi che si allontanavano, la porta che si chiudeva, e allora le mie gambe sollevate, come se decidessero da sole, tornarono alla loro posizione di prima. Il parto si era concluso. Rimasi così circa 3 ore, secondo i miei calcoli. So che cominciava ad annottare quando uscì dal cesso. Avevo le estremità intorpidite. Avevo un sasso sullo stomaco e un dolore al petto. Avevo come un velo o una garza sugli occhi. Avevo dei ronzii d'ape o vespa o calabrone nelle orecchie o nella testa. Avevo una specie di agitazione e al tempo stesso voglia di dormire. Ma la verità è che ero più sveglia che mai. La situazione era nuova, lo ammetto. Ma io sapevo cosa fare. Io sapevo qual era il mio dovere. Così mi arrampicai sull'unica finestra della toilette e guardai fuori. Vidi un soldato perso in lontananza. Vidi la sagoma di un autoblindo o l'ombra di un autoblindo, anche se poi mi misi a riflettere, forse quello che avevo visto era l'ombra di un albero. Come il portico della letteratura latina. Come il portico della letteratura greca. Come mi piace la letteratura greca. Da Saffo a Giorgos Seferis. Vedi il vento che attraversava l'università, come se si godesse le ultime luci del giorno. E capii cosa dovevo fare. Lo capii. Capii che dovevo resistere. Così mi sedetti sulle piastrelle del bagno delle donne e approfittai degli ultimi raggi di sole per leggere altre tre poesie di Pedro Garfias. E poi chiusi il libro e chiusi gli occhi e mi dissi: auxilio la couture, cittadina uruguaiana, latinoamericana, poetessa e viaggiatrice, resisti. Solo questo. E poi mi misi a pensare al mio passato, come penso adesso al mio passato. Poi andai indietro con le date, si ruppe il rombo nello spazio dell'ipotetica disperazione. Le immagini salirono dal fondo del lago, senza che niente e nessuno potesse evitarlo. Riemersero le immagini di quel povero lago che non è illuminato né dal sole né dalla luna. E il tempo si piegò e si dispiegò come un sogno. Il 1968 si trasformò nel 64 e nel 60 e nel 56 e si trasformò anche nel 70 e nel 73 e nel 75 e nel 76, come se fossi morta e contemplassi gli anni da una prospettiva inedita. Voglio dire, mi misi a pensare al mio passato come se pensassi al mio presente e al mio futuro e al mio passato, tutto mischiato e assopito in un unico uovo tiepido. Un uovo enorme di non so quale uccello interiore, al riparo in un nido di macerie fumanti. Mi misi a pensare, per esempio, ai denti che avevo perso, anche se in quel momento, nel settembre del 1968, avevo ancora tutti i miei denti, cosa che a ben guardare è piuttosto strana. Ma quel che è certo è che pensai ai miei denti, ai quattro denti davanti che avrei perso negli anni successivi, perché non avevo i soldi per andare dal dentista, né la voglia di andare dal dentista, né il tempo. E fu curioso pensare ai miei denti, perché da una parte me ne fregavo di non avere i quattro denti più importanti nella dentatura di una donna, e dall'altra quella perdita mi feriva fin nel profondo del mio essere, e la ferita bruciava ed era assieme necessaria e superflua. Era assurda. Ancora oggi, quando ci penso, non capisco. Insomma, ho perso i denti in Messico come avevo perso tante altre cose in Messico. E anche se di tanto in tanto voci amiche o presunte tali mi dicevano: mettiti i denti, auxilio, faremo una colletta per comprarti una protesi, auxilio, io ho sempre saputo che quel buco sarebbe rimasto lì fino alla fine nella carne viva. E non le ascoltavo troppo, anche se non davo nemmeno una risposta del tutto negativa. E la perdita portò con sé una nuova abitudine. A partire da allora, quando parlavo o quando ridevo, cominciai a coprirmi la bocca sdentata con il palmo della mano, un gesto che, come scoprii più avanti, non tardò a diventare popolare in determinati ambienti. Avevo perso i denti, ma non la discrezione e la riservatezza, un certo senso dell'eleganza. L'imperatrice Giuseppina, è noto, aveva delle enormi carie nere ai denti posteriori, ma questo non diminuiva di una virgola il suo fascino. Lei si copriva con un fazzoletto o con un ventaglio. Io, più terra terra, abitante della città del Messico alata e della città del Messico sotterranea, Mi portavo il palmo della mano alle labbra e ridevo e parlavo liberamente nelle lunghe notti messicane. Il mio aspetto, per chi mi conosceva poco, era quello di una cospiratrice o di uno strano essere, metà sulamita, metà pipistrello albino. Ma a me non importava. «C'è Auxilio», dicevano i poeti, e io ero là, seduta al tavolo di un romanziere con il delirium tremens o di un giornalista suicida, a ridere, a parlare, a confabulare, a raccontare pettegolezzi, e nessuno poteva dire: «Io ho visto la bocca ferita dell'uruguaiana. Io ho visto le gengive nude dell'unica persona che è rimasta all'università quando sono entrati i reparti antisommossa nel settembre del 1968. Potevano dire: Auxilio parla come i cospiratori, avvicinando la testa e coprendosi la bocca. Potevano dire: Auxilio parla guardandoti negli occhi. Potevano dire, e ridere nel dirlo, ma come fa Auxilio, benché abbia le mani occupate con i libri e i bicchieri di tequila, a portarsi sempre una mano alla bocca in quel modo peraltro spontaneo e naturale? Dove sta il segreto di quel suo prodigioso gioco di prestigio? Il segreto, amici miei, non voglio portarmelo nella tomba. Nella tomba non bisogna portarsi nulla. Il segreto sta nei nervi. Nei nervi che si tendono e si allungano per raggiungere i bordi della socievolezza e dell'amore. I bordi spaventosamente affilati della socievolezza e dell'amore. Io ho perso i denti sull'altare dei sacrifici umani. Ma non pensai solo ai miei denti, che ancora non erano caduti. Pensai anche ad altre cose, come per esempio al giovane Arturo Belano, che ho conosciuto quando aveva 16 o 17 anni, nel 1970. Quando io ero già la madre della giovane poesia messicana e lui un ragazzino che non sapeva bere, ma era orgoglioso che nel suo lontano Cile avesse vinto le elezioni Salvador Allende. Io l'ho conosciuto. L'ho conosciuto in un assordante raduno di poeti al bar Encrujada Veracruzana, un'orribile tana o por Cile, in cui a volte si riuniva un gruppo eterogeneo di giovani e meno giovani promesse. Fra tutte le promesse, lui era la promessa più giovane. E per di più l'unico che a 17 anni avesse già scritto un romanzo. Un romanzo che poi è andato perso, o è stato divorato dal fuoco, o è finito in una delle immense discariche che circondano Città del Messico, e che io all'inizio lessi con qualche riserva, poi con piacere. Non perché fosse un bel romanzo, no. Il piacere veniva dagli indizi di determinazione che trasparivano da ogni pagina. La commovente determinazione di un adolescente. Il romanzo era brutto, ma lui era in gamba. Così divenne sua amica. Credo che fosse perché eravamo gli unici due sudamericani in mezzo a tanti messicani. Divenni sua amica. Mi avvicinai e gli parlai coprendomi la bocca con la mano. E lui sostenne il mio sguardo e mi fissò il dorso della mano e non mi chiese per quale ragione mi coprissi la bocca. Ma credo che, a differenza di altri, lo indovinasse all'istante. Voglio dire che indovinò il motivo ultimo, l'orgoglio estremo che mi portava a coprirmi le labbra, e non gli dispiacque. Quella sera divenni sua amica. Malgrado la differenza di età, malgrado la differenza di tutto. Fui io, settimane dopo, a dirgli chi era Ezra Pound, chi era William Carlos Williams, chi era T.S. Eliot. Fui io una volta a riportarlo a casa malato, ubriaco, stretto a me, aggrappato alle mie spalle magre. E divenni amica di sua madre e di suo padre, di sua sorella, così simpatica, tutti così simpatici. Io la prima cosa che dissi a sua madre fu: signora, non sono andata a letto con suo figlio. Mi piace essere così, franca e sincera, con la gente franca e sincera, anche se ho avuto un'infinità di dispiaceri per questa mia inveterata abitudine. Alzai le mani e sorrisi e poi abbassai le mani e glielo dissi. E lei mi guardò come se fossi appena uscita da uno dei quaderni di suo figlio, di Arturito Belano, che allora stava smaltendo la sbronza in quella specie di antro che era la sua camera. E lei disse: «No, certo, Auxilio, ma non mi chiamare signora, abbiamo quasi la stessa età». E io inarcai un sopracciglio e la fissai con il mio occhio più azzurro, quello destro, e pensai: «Ma guarda un po', ha ragione, dobbiamo avere più o meno la stessa età». Forse io avevo 3 anni di meno, o 2, o 1, ma in sostanza eravamo della stessa generazione. L'unica differenza era che lei aveva una casa e un lavoro e ogni mese prendeva lo stipendio e io no. L'unica differenza era che io uscivo con gente giovane e la madre di Arturito usciva con gente della sua età. L'unica differenza era che lei aveva 2 figli adolescenti e io non ne avevo nessuno, ma anche questo non importava, perché a quel tempo anch'io, a mio modo, avevo centinaia di figli. Fu così che divenni amica di quella famiglia. Una famiglia di cileni viaggiatori che era emigrata in Messico nel 1968, il mio anno. E una volta lo dissi alla mamma di Arturo: «Pensa», le dissi, «mentre tu stavi facendo i bagagli per il viaggio, io ero chiusa nel bagno delle donne al 4° piano della facoltà di lettere e filosofia della UNAM». «Lo so, Auxilio», diceva lei. «È curioso, no?» dicevo io. «Eh sì», diceva lei. «E potevamo andare avanti così per un pezzo, la sera, ascoltando musica e parlando e ridendo». Divenni amica di quella famiglia. Venivo ospitata in casa loro per lunghi periodi, una volta un mese, un'altra volta 15 giorni, un'altra volta un mese e mezzo, perché allora non avevo soldi per pagarmi una pensione o un abbaino e la mia vita quotidiana era diventata un continuo vagare da una parte all'altra della città alla mercé del vento notturno che soffia per le strade e i viali di Città del Messico. Di giorno vivevo all'università facendo 1000 cose e di notte vivevo la vita del bohemien e dormivo e disseminavo i miei pochi averi nelle case di amiche e amici: vestiti, libri, riviste, fotografie. Io Remedios Varo, io Leonora Carrington, io Eunice Odio, io Lilian Serpas. Ah, povera Lilian Serpas, devo parlare di lei. E naturalmente arrivava il momento in cui le mie amiche e i miei amici si stancavano di me e mi chiedevano di andarmene. E io me ne andavo. Io facevo una battuta e me ne andavo. Io cercavo di sdrammatizzare e me ne andavo. Io chinavo il capo e me ne andavo. Io li baciavo sulla guancia. Li ringraziavo e me ne andavo. Certe male lingue dicono che non me ne andavo, mentono. Me ne andavo non appena lo dicevano. Forse a volte mi chiudevo in bagno e versavo qualche lacrima. Certe linguacce dicono che i bagni erano il mio debole. Come si sbagliano? I bagni erano il mio incubo. Anche se da settembre del 68 gli incubi per me non erano una novità. Ci si abitua a tutto. Mi piacciono i bagni. Mi piacciono i bagni delle mie amiche e dei miei amici. Mi piace, come a ogni essere umano, fare la doccia e affrontare il nuovo giorno bella pulita. Mi piace fare la doccia anche prima di andare a dormire. La mamma di Arturito mi diceva: «Usa quell'asciugamano pulito che ho messo per te, Auxilio». Ma io non usavo mai asciugamani. No, non mi piace. Preferivo vestirmi con la pelle ancora bagnata, in modo che fosse il calore corporeo ad asciugare le goccioline. La gente lo trovava divertente. Anch'io lo trovavo divertente, ma avrei potuto anche diventare pazza. Se non sono diventata pazza è perché non ho mai perso il senso dell'umorismo. ridevo delle mie gonne, dei miei pantaloni a tubo, delle mie calze a righe, dei miei calzini bianchi, del mio taglio alla principe Valiant, con i capelli ogni giorno meno biondi e più grigi, dei miei occhi che scrutavano la notte di Città del Messico, delle mie orecchie rose che ascoltavano le storie dell'università, chi saliva, chi scendeva, chi era bellamente ignorato, chi veniva messo in coda, chi leccava i piedi a chi, le adulazioni, i falsi meriti, i letti tremanti che si smontavano e poi si rimontavano sotto il cielo sconvolto di Città del Messico, quel cielo che conoscevo così bene, quel cielo convulso e irraggiungibile come una pentola azteca sotto il quale io mi muovevo felice e contenta, con tutti i poeti del Messico, con Arturito Belano che aveva 18 anni e cresceva sotto il mio sguardo. Tutti crescevano protetti dal mio sguardo, cioè tutti crescevano nelle intemperie messicane, nelle intemperie latinoamericane, che sono le intemperie più grandi perché sono le più divise e le più scisse. E il mio sguardo luccicava come la luna in quelle intemperie e si posava sulle statue, sulle figure intimorite, sui crocchi di ombre, sui contorni che non avevano nulla eccetto l'utopia della parola, una parola d'altra parte abbastanza miserabile. Miserabile? Sì, ammettiamolo, abbastanza miserabile. E io stavo lì con loro perché anch'io non avevo nulla eccetto la memoria.